Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. La pioggia, caduta a diluvio durante la notte, aveva reso impraticabile quel lungo stradone di campagna, tutto volte e risvolte, quasi in cerca di men faticose erte e di pendii meno ripidi. Il guasto delle intemperie appariva tanto più triste, in quanto qua e là già era evidente il disprezzo e quasi il dispetto della cura di chi aveva tracciato e costruito la via per facilitare il cammino tra le asperità di quei luoghi, con gomiti e giravolte e opere or di sostegno or di riparo. I sostegni erano crollati, i ripari abbattuti, per dar passo a dirupate scorciatoie. Pioviginava ancora a scosse nell'alba livida tra il vento che spirava gelido a raffiche da ponente, e a ogni raffica, su quel lembo di paese emergente, dalle fosche ombre umide della notte tempestosa, pareva scorresse un brivido, dalla città alta e velata sul colle, alle vallate, ai poggi, ai piani irti ancora di stoppie annerite, fino al mare laggiù, torbido e rabbuffato. Pioggia e vento parevano un'ostinata crudeltà del cielo sopra la desolazione di quelle piagge estreme della Sicilia, sulle quali, girgenti, nei resti miserevoli della sua antichissima vita, raccolti lassù, si levava silenziosa e attonita superstite nel vuoto di un tempo senza vicende e nell'abbandono di una miseria senza riparo. Le alte spalliere di fichi d'India, ispide, carnute e stravolte, o le siepi di rovi secchi e di agavi, le muricce qua e là screpolate, erano di tratto in tratto interrotte da qualche pilastro cadente che reggeva un cancello scontorto e arrugginito, o da rozzi e squallidi tabernacoli, i quali, nella solitudine immobile, guardati dagli ispidi rami degli alberi gocciolanti, anziché conforto, ispiravano un certo sgomento, posti com'erano lì a ricordare la fede a viandanti, per la maggior parte campagnuoli e carrettieri, che troppo spesso, con aperta e nascosta ferocia, dimostravano di non ricordarsene. Qualche tristo uccelletto sperduto veniva, col timido volo delle penne bagnate, a posarsi su essi. Spiava e non ardiva emettere neppure un lamento in mezzo a tanto squallore. Vi strillava, al contrario, almeno a prima vista, una giumenta bianca montata da un faccio di cannizzo e cappotto turchino. Se non che, a guardar bene, quella giumenta bianca si scopriva anch'essa compassionevole, vecchia e stanca, sbruffava ogni tanto dimenando la testa bassa, come se non ne potesse più di sfangare per quello stradone. E il cavaliere, che la esortava amorevolmente, pur in quella vivace uniforme di soldato borbonico, non appariva meno avvilito della sua bestia, le mani paonazze, gronche dal freddo e tutto ristretto in sé contro il vento e la pioggia. «Coraggio, Dedena!» E intanto il fiocco del berretto a barca, di bassa tenuta, pendulo sul davanti, gli andava in qua e in là, quasi battendo la solfa al trotto stracco della povera giumenta. Dei rari passanti a piedi o su pigri asinelli, qualcuno che ignorava come qualmente il principe Don Ippolito Laurentano tenesse una guardia di 25 uomini con la divisa borbonica nel suo feudo di Colimbetra, dove fin dal 1860 si era esiliato per attestare la sua fiera fedeltà al passato governo delle due Sicilie, si voltava stupito e si fermava un pezzo a mirare quel buffo fantasma emerso dai velari strappati di quell'incerto crepuscolo, e non sapeva che pensarne. Passando innanzi allo stupore di questi ignoranti, Placido Sciaralla, capitano di quella guardia, nonostante il freddo e la pioggia, ond'era tutto avvezzato e inzuppato, si drizzava sulla vita per assumere un contegno marziale. Marzialmente, se capitava, porgeva con la mano il saluto a qualcuno di quei tabernacoli. Poi, chinando gli occhi per guardarsi le punte tirate su a forza e insegate dei radi baffetti neri, sotto il robusto naso aquilino, cangiava l'amorevole esortazione alla bestia in un «Su e su!» imperioso, seguito da una stretta alla briglia e da un colpetto di sproni giunti, a cui talvolta Titina, mannaggia, sforzata così nella lenta vecchiezza, soleva rispondere dalla parte di dietro con poco decoro. Ma questi incontri, tanto graditi al capitano, avvenivano molto di rado. Tutti ormai sapevano di quel corpo di guardia Colimbetra e ne ridevano o se ne indignavano. E il papa in Vaticano con gli svizzeri, Don Ippolito Laurentano nel suo feudo con Sciaralla e compagnia. E Sciaralla, che dentro la cinta di Colimbetra si sentiva a posto, capitano sul serio, fuori non sapeva più qual contegno darsi per sfuggire alle beffe e alle ingiurie. Già cominciamo che tutti lo degradavano, chiamandolo caporale. Stupidaggine, indegnità, perché lui comandava ben 25 uomini. 25! E bisognava vedere come li istruiva in tutti gli esercizi militari e come li faceva trottare. E poi, del resto, scusate, tutti i signoroni non tengono forse nelle loro terre una scorta di campieri in divisa? Veramente, dichiararsi campiere soltanto scottava un po' al povero Sciaralla, che nasceva bene e aveva la patente di maestro elementare e di ginnastica. Tuttavia, a colorar così la cosa, s'era piegato talvolta a malincuore per non essere qualificato peggio. Campiere, sì. Campiere capo. Caporale? Oh, capo, capo! E che era caporale? Stiamo parlando di milizia. Ammettete allora che sia milizia. Di chi? Come? E perché poi vestita in quel modo? Ma Sciaralla si stringeva nelle spalle e socchiudeva gli occhi. Un uniforme come un'altra, capriccio di Sua Eccellenza, che volete farci? Con alcuni più creduli, Sciaralla si lasciava andare a confidenze misteriose. Che il principe, cioè, malvisto per le sue idee dal governo italiano, il quale, figurarsi, avrebbe alzato il fianco a saperlo morto, assassinato o derubato senza pietà, avesse davvero bisogno, nella solitudine della campagna, di quella scorta di cui egli, Sciaralla, indegnamente era il capo. Restava però sempre da spiegare perché quella scorta dovesse andar vestita di quell'uniforme odiosa. «Boia, piuttosto!» s'era sentito più volte rispondere il povero Sciaralla, il quale allora pensava con un po' di fiele quanto fosse facile al principe il serbare con tanta dignità e tanta costanza quel fiero atteggiamento di protesta, rimanendo sempre chiuso entro i confini di Colimbetra, mentre a lui e ai suoi subalterni toccava da rischiarsi fuori e a risponderne. Invano, a quattro occhi, giurava e spergiurava che mai e poi mai, al tempo dei Borboni, avrebbe indossato quell'uniforme, simbolo di tirannide, allora, simbolo dell'oppressione della patria, e soggiungeva, scotendo le mani, «Ma ora, signori miei, via, ora che siete voi i padroni, lasciatemi stare, è pane, siete sul serio?» Gli volevano amareggiare il sangue a ogni costo, fingendo di non comprendere che egli, poi, non era tutto nell'abito che indossava, che sotto quell'abito c'era un uomo come tutti gli altri, costretto a guadagnarsi da vivere in qualche porca maniera, con gli sguardi e coi sorrisi, componendo il volto a un'aria di vivo interessamento ai casi altrui, cercava in tutti i modi di stornar l'attenzione da quell'abito. Poi, di tutte quelle arti che usava, di tutte quelle smorfie che faceva, si stizziva fieramente con se stesso, perché a guardar quell'abito senza alcuna idea gli pareva bello, santo Dio, e che gli stesse proprio bene, e quasi quasi gli cagionava rimorso il dover fingersi afflitto di portarlo. In fondo, con tali e tanti protettori, Sciaralla avrebbe potuto ridersi della baia che gli dava la gente minuta, se, come tutti i vani, non fosse stato desideroso d'esser veduto e accolto da ognuno con grazia e favore. Non sapeva ridersene poi, e anzi, da un pezzo in qua, ne era anche più di un po' costernato, per un'altra ragione. C'era una chiacchiera in paese, la quale di giorno in giorno si veniva sempre più raffermando, che tutti gli operai delle città maggiori dell'isola e le contadinanze e più da presso nei grossi borghi dell'interno i lavoratori delle zolfare si volessero raccogliere in corporazioni o, come li chiamavano, in fasci, per ribellarsi non pure ai signori ma a ogni legge, dicevano, e far man bassa di tutto. Più volte, essendo di servizio nell'anticamera, ne aveva sentito discutere nel salone. Il principe le dava colpa, s'intende, al governo usurpatore che prima aveva gabbato le popolazioni dell'isola col lustro della libertà e poi l'aveva affamata con imposte e manomissioni inique. Gli altri gli facevano coro, ma monsignor vescovo pareva a Sciaralla che meglio di tutti sapesse scoprir la piaga. Il vero male, il più gran male fatto dal nuovo governo, non consisteva tanto nell'usurpazione che faceva ancora e giustamente sanguinare il cuore di Sua Eccellenza il Principe di Laurentano. Monarchie, istituzioni civili e sociali, cose temporanee che passano. Si farà male agli uomini a cambiarle o a toglierle di mezzo, se giuste e sante. Sarà un male, però, possibilmente rimediabile. Ma se togliete od oscurate agli uomini ciò che dovrebbe splendere eterno nel loro spirito, la fede, la religione. Orbene, questo aveva fatto il nuovo governo. E come poteva più il popolo starsi quieto tra le tante tribolazioni della vita, se più la fede non gliela faceva accettare con rassegnazione, e anzi con giubilo, come prova e promessa di premio in un'altra vita? La vita è una sola. E questa? Le tribolazioni non avranno un compenso di là, se con rassegnazione sopportate? E allora, per quale ragione più accettarle e sopportarle? Prorompa allora l'istinto bestiale di soddisfare qua giù tutti i bassi appetiti del corpo. Parlava proprio bene, monsignore, la vera, vera ragione di tutto il male era questa. Insieme però con Monsignore, che veramente, ricco com'era, sentiva poco le tribolazioni della vita, Sciaralla avrebbe voluto che tutti i poveri la riconoscessero, questa ragione. Ma non riusciva a levarsi dal capo un vecchierello mendico presentatosi un giorno al cancello della villa col rosario in mano, il quale, stando ad aspettare l'elemosina e sentendo un lungo brontolio nel suo stomaco, gli aveva fatto notare con mesto sorriso: «Senti, non te lo dico io, te lo dice lui, che ha fame!» La costernazione di Sciaralla per quel grave pericolo che sovrastava a tutti i signori proveniva più che altro dalla sicurezza con cui il principe, là nel salone, pareva lo sfidasse. Riposava certo su lui e sul valore e la devozione dei suoi uomini quella sicurezza del principe, al quale poteva bastare che dicesse di non aver paura, lasciando poi agli altri il pensiero del rimanente. Fortuna che finora lì a Girgenti nessuno si muoveva né accennava di volersi muovere. Paese morto, tanto vero dicevano i maligni che vi regnavano i corvi, cioè i preti. La l'invidia, tanto di far bene quanto di far male, era radicata nella più profonda sconfidenza della sorte, nel concetto che nulla potesse avvenire e che vanno a essere sforzo per scuotere l'abbandono desolato in cui giacevano non soltanto gli animi, ma anche tutte le cose. E a Sharallah parve di averne la prova nel triste spettacolo che gli offriva quella mattina la campagna intorno e quello stradone. Aveva già attraversato il tratto incassato nel taglio perpendicolare del lungo ciglione su cui sorgono aerei e maestosi gli avanzi degli antichi tempi agragantini. Veramente, da quella triste contrada, maledetta dai contadini, costretti a dimorarvi dalla necessità, macilenti, ingialliti, febbricitanti, pareva spirasse nello squallore dell'alba un'angosciosa oppressione di cui anche i rari alberi che vi sorgevano fossero compenetrati. Qualche centinario olivo saraceno dal tronco stravolto, qualche mandorlo inscheletrito dalle prime ventate d'autunno. «Ne è venuta di acqua, eh? E che acqua?» s'affrettava a dire Capitan Sharallah, imbattendosi lungo quel tratto nella gente di campagna o nei carrettieri che lo conoscevano. Lo diceva per prevenire beffe e ingiurie e dava di sprone alla povera Titina. Non a caso, però, quel giorno metteva avanti la pioggia della notte scorsa, trottando e guardando nel cielo la nera nuvolaglia sbrendolata e raminga, pensava proprio a essa per trovarvi una scusa che gli quietasse la coscienza, avendo trasgredito a un ordine positivo ricevuto la sera avanti dal segretario del principe, l'ordine di recare sul tamburo una lettera a Don Cosmo Laurentano, fratello di Don Ippolito, che viveva segregato anche lui nell'altro feudo di Valsania, a circa 4 miglia da Colimbetra. Sharallah non se l'era sentita ad avventurarsi a quell'ora, con quel tempo da lupi, fin laggiù. Aveva pensato che Lisi Preola, il vecchio segretario, avendo una forca di figliuolo che aspirava a diventare capitano della guardia, non cercava di meglio che mandar lui, Sharallah, all'altro mondo. Che però forse quella lettera non richiedeva tale urgenza che gli rischiasse di rompersi il collo per una via scellerata, al buio, sotto la pioggia furiosa, tra lampi e tuoni, e che, infine, avrebbe potuto aspettare l'alba e partir di nascosto senza rinunziare per quella sera alla briscola nella casermuccia sul greppo dello sperone, dove si riduceva coi 3 compagni graduati a passar la notte, dandosi il cambio ogni 3 ore nella guardia. L'uscir da Colimbetra era sempre penoso per Capitan Sharallah, perché doveva recarsi a Balsania, dove ogni volta gli toccava ad affrontare paziente l'odio di un vecchio energumeno, terrore di tutte le contrade circonvicine, chiamato Mauro Mortara, il quale, approfittando della dabbenaggine di Don Cosmo, a cui certo i libracci di filosofia avevano sconcertato il cervello, vi stava da padrone. «Coraggio, coraggio, Tetena, coraggio!» sospirava pertanto Sharallah ogni qualvolta che gli si presentava alla mente la figura di quel vecchio. Basso di statura, un po' curvo, senza giacca, con una ruvida camicia d'albagio di color violaceo a quadri rossi aperta sul petto irsuto. Un enorme retto doppio in capo che egli da se stesso s'era fatto dal cuoio di un agnello, la cui concia col sudore gli aveva tinti di giallo i lunghi cernecchi e ai lati l'incolta barba bianca. Comico e feroce, con 2 grosse pistole sempre alla cintola, anche di notte, poiché si buttava a dormir vestito su uno strapunto di paglia per poche ore soltanto. A 77 anni, sveglio ancora e robusto, più di un giovanotto di 20. E non morirà mai, sbuffava Sharallah. Coraggio, coraggio, Titena, continuava a dire Sharallah. Conveniva soffrirseli in pace gli sgarbi e i raffacci di quel vecchio Mauro Mortara, il quale sì Guai e rischi di ogni sorta ne aveva toccati e affrontati in vita sua, senza fine. Ma che fortuna adesso servire sotto Don Cosmo, che non si curava mai di nulla, fuor di quei suoi libracci che lo tenevano tutto il giorno vagante, come in un sogno, per i viali di Balsania. Che differenza tra il principe suo padrone e questo Don Cosmo? Che differenza poi tra entrambi questi fratelli? E la sorella donna Caterina Auriti, che viveva, vedova e povera, a Girgenti. Da anni e anni, tutti e tre erano in rotta tra di loro. Donna Caterina Laurentano aveva seguito, lei sola, le nuove idee del padre, e poi si diceva che, da giovinetta, aveva recato onta alla famiglia, fuggendo di casa con Stefano Auriti, morto poi nel 60 garibaldino nella battaglia di Milazzo, mentre combatteva accanto al Mauro Mortara e al figlio Don Roberto, che ora viveva a Roma e che allora era ragazzo di appena 12 anni, il più piccolo dei mille. Figurarsi dunque se il principe poteva andare d'accordo con quella sorella, ma con Cosmo intanto perché no? Questi, almeno apparentemente, non aveva mai parteggiato per alcuno. Ma forse non approvava la protesta del fratello maggiore contro il nuovo governo. Chi aveva però ragione di loro due? Il padre, prima che liberale, era stato borbonico, gentiluomo di camera e chiave d'oro. Quale meraviglia dunque se il figlio, stimando Fedigrafo, il padre s'era serbato fedele al passato governo. Meritava anzi rispetto per tanta costanza, rispetto e venerazione, e non c'era nulla da ridire se voleva che tutti sapessero come egli la pensava, anche dal modo in cui vestiva i suoi dipendenti. Sì, signore, sono borbonico e ho il coraggio delle mie opinioni.